nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica e che Pasqua particolare quella che oggi si festeggia. Penso che per molti di noi rimarrà una Pasqua indimenticabile e comunque è una buona ragione per farci gli auguri ancora più affettuosamente a tutti voi che ci ascoltate, agli amici di Nessuna è Perfetta e un pensiero a tutti quelli che purtroppo non avranno gran voglia di festeggiare per questa Pasqua perché si trovano in circostanze legate appunto alla pandemia di cui ormai da settimane parliamo tutti i giorni e non potrebbe che essere così. Comunque a tutti un augurio. Che dire, speriamo che la prossima Pasqua sarà veramente una Pasqua di resurrezione, di rinascita. La Pasqua questa è, no? La rinascita. Ecco, pensiamo, speriamo che questa Pasqua sia una Pasqua di rinascita. E Nessuna è Perfetta, come sapete, va in onda da casa e anche in questa giornata particolare noi pensiamo a come convivere e guardiamo anche avanti perché queste giornate prima o poi finiranno e bisognerà evitare che ci si rovesci addosso quello che tutti temiamo, una recessione economica, grandi problemi che già si profilano per le aziende piccole, grandi e di tutto questo insomma parleremo con i nostri ospiti. Intanto vi ricordo che i vostri messaggi che sono arrivati anche numerosi per la puntata della domenica scorsa potete lasciarceli i vostri messaggi vocali all'828 12 12 e ricorderete che la settimana scorsa proprio cercando di guardare avanti che è un po' lo spirito di Nessuna è Perfetta, noi non guardiamo mai indietro, cerchiamo di immaginare che cosa potrà succedere, cerchiamo di immaginare anche che cosa di buono potrà succedere. Ecco, domenica scorsa ci siamo chiesti ma invece di stare lì fermi sul divano e chiedere sempre allo Stato, alle regioni di fare cosa che è giusto e doveroso che facciano, però che cosa potremmo fare noi? E il modello del quale abbiamo parlato è il modello svizzero, cioè un servizio obbligatorio in Svizzera. Sono coinvolti solo gli uomini, invece nel resto d'Europa, se mai passasse questa idea, sarebbe un servizio che coinvolge tutti, soprattutto i più giovani dai 19 anni, perché imparino cose che poi, quando c'è un'emergenza enorme, possono essere di grande aiuto. Se tutti noi sapessimo come comportarci, per esempio, nelle attività elementari che possono riguardare un'emergenza sanitaria, potremmo essere di aiuto, semmai, speriamo di no, si dovesse ripresentare un'epidemia. E ci avete mandato molti messaggi e vorrei cominciare a sentire qualcuno con voi. Una buona giornata signora Maria e complimenti per la trasmissione. Sto ascoltando la puntata e se non ho capito male si parla di una sorta di servizio civile da istituire per legge. Beh, mi consenta di dire che sarebbe una bella trovata. Sono artigiano, in questi giorni di chiusura forzata sono naturalmente a casa. Cerco di tenermi impegnato come posso. Ma che bello se potessi rendermi utile in qualche modo per questa fase di difficoltà per il nostro paese. Grazie, arrivederci. Ecco, appunto, grazie a questo ascoltatore che appunto generosamente dice: sono fermo in casa, non faccio niente, se potessi essere d'aiuto. Ecco, pensiamo che questa epidemia di coronavirus non lasci le cose come stanno, così che se succede un'altra volta saremo di nuovo con gente che non può essere d'aiuto al resto della collettività, mentre negli ospedali medici, infermieri, tutto il personale vive condizioni difficili. Se ci preparassimo prima, magari su livelli, ripeto, elementari, quelli che non necessitano una laurea in medicina, forse potremmo essere utili, ma non solo su questo. Quindi grazie a questo ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio incoraggiante. E vorrei sentirne un altro, ricordandovi sempre che potete lasciarli all'828 12 12. Dottoressa, buonasera. Se non ho capito male, c'è cercato una parte del mondo lavorativo che propone che le donne che pare che siano più resistenti al virus tornino prima al lavoro. Ma parliamo per caso delle stesse donne che normalmente vengono pagate di meno, sono quelle che vengono scartate ai colloqui, osteggiate, se incinte. Insomma, usarla anche in questo caso, ma anche no, direi. È vero, io penso che se per esempio la ripartenza, come ormai la chiamiamo, prevederà uno scaglionamento per età, e visto che le donne sembrano essere meno vulnerabili al coronavirus, si cercherà di far tornare prima al lavoro, io non ci trovo niente di male. Se le donne, che sono state per secoli definite il sesso debole, si rivelano il sesso forte, almeno in questa particolare emergenza, non ne farei né una questione di, come dire, orgoglio sbagliato, sarebbe una sciocchezza, ma nemmeno un elemento di recriminazione per dire: ah, ecco, veniamo usate solo nel momento del bisogno. Nel momento del bisogno uno si dà da fare, questa, così la penso io almeno. Comunque, questa era la puntata di domenica scorsa. Di che parliamo invece questa domenica di Pasqua? Parliamo di ripartire, perché bisogna cominciare a pensarlo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato intendere che appunto il governo sta pensando di riaprire le aziende, almeno in alcune aree del paese, quelle meno toccate. La cosiddetta fase 2 dovrebbe prendere il via probabilmente ai primi di maggio. Ma siccome questa trasmissione Nessuna è perfetta è nata per parlare di donne e di lavoro, ecco, noi vorremmo cominciare a pensare al fatto che se davvero le donne si sono rivelate più resistenti al coronavirus, questa può essere un'occasione per loro per formarsi meglio, per quelle che non hanno una formazione che magari vedrà più domanda sul mercato, perché il punto è proprio questo: quando si ripartirà, da dove si ripartirà, quali saranno i bisogni che verranno espressi, in una parola, chi potrà essere davvero utilizzato per primo, a parte chi il lavoro l'ha mantenuto per fortuna, a parte le aziende che riapriranno, ma quali nuove esigenze il mondo del lavoro esprimerà? Allora, di tutto questo e anche di come state pensando alla vostra ripartenza, ve lo ricordo, aspetto i vostri messaggi 828 12 12. Di tutto questo, dicevo, parleremo tra poco. Adesso una pausa. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 Mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Nessuna è perfetta. Benvenuta a Nessuna è perfetta. Buona domenica al ministro degli esteri norvegese, la signora Ine Eriksen Søreide. In Italia, in questo periodo difficile, stiamo assistendo a tante manifestazioni di solidarietà da parte di tanti paesi stranieri e anche la Norvegia qualche giorno fa ha inviato nel nostro paese una task force sanitaria. Ci dice qualcosa di più? Innanzitutto grazie mille per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo programma. Per noi come paese era molto importante dimostrare nella pratica la solidarietà nei confronti dell'Unione Europea con gesti concreti. Abbiamo avuto l'opportunità di mandare in Italia un team composto da medici, infermieri, personale specializzato in terapia intensiva. Il governo italiano ne aveva fatto richiesta e abbiamo deciso di farlo ed è stato fatto tutto molto velocemente. Si tratta di una squadra composta da 22 persone. Sono partite dalla Norvegia mercoledì scorso e resteranno in Italia per circa 4 settimane. Molti di loro hanno partecipato all'epidemia di morbillo che si è verificata lo scorso dicembre a Samoa e all'esplosione Ebola l'anno scorso, quindi hanno molta esperienza. Sono specialisti che provengono da diversi ospedali della Norvegia e che aiuteranno i colleghi italiani. Sono in stretto contatto anche con il mio ottimo collega italiano Luigi Di Maio e lui stesso ci ha già espresso la sua gratitudine. Possono esserci dei vantaggi di conoscenza, di esperienza, da questa esperienza appunto che la task force norvegese farà in Italia? Sì, assolutamente sì. Abbiamo già tratto benefici da questa esperienza. Il nostro ministro della Salute ha già dichiarato pubblicamente che grazie a questa esperienza stiamo raccogliendo benefici da dottori italiani. La loro esperienza è stata importante in quella che è stata poi la nostra risposta del virus e pianificare come fare con il numero di pazienti, soprattutto quelli in terapia intensiva in Norvegia. Abbiamo quindi avuto grossi benefici e abbiamo espresso la nostra enorme gratitudine, anche perché nonostante l'emergenza e la situazione terribile in cui si trovavano, i medici italiani hanno trovato il tempo di consultarsi e condividere la situazione con i colleghi norvegesi. Com'è in questo momento la situazione da voi per l'emergenza Covid-19? Che misure avete assunto? Qui in Norvegia abbiamo fatto i test a oltre 120.000 persone. Abbiamo avuto 102 decessi, circa 6.100 casi di infezione e il numero di pazienti nei reparti di terapia intensiva sta lentamente calando. Pensiamo di avere sotto controllo adesso la diffusione del virus, anche se è un fattore che cambia facilmente. E questa è la ragione per cui continueremo ad applicare alcune delle forti misure che abbiamo adottato. L'unica modifica che abbiamo deciso di fare riguarda la riapertura di asili e delle scuole primarie, che avverrà tra il 20 e il 27 aprile. Ci saranno comunque delle regole da osservare, quali mantenere le distanze, lavarsi le mani. Riapriremo anche alcune attività che sono state chiuse, in particolare i cosiddetti business one-to-one. La situazione situazione resterà comunque speciale per i prossimi mesi e alcune delle misure più forti, come non avere più di 5 persone insieme alla volta. Not having more than 5 people gathering at the same time, they will still apply. Dunque, abbiamo letto che siete pronti per la cosiddetta fase 2. Che cosa riaprirete nei prossimi giorni? First of all, I think that every measure when you try to in a way reopen society again, it has to be done. Innanzitutto, credo che ogni misura per ripartire debba essere fatta gradualmente perché sappiamo perfettamente che questa epidemia può facilmente riesplodere. E di certo è uno scenario che non vogliamo. Abbiamo deciso di far ripartire asili e scuole per i più piccoli, perché sono quelle categorie che non possono trarre benefici dalle lezioni da casa. Naturalmente, come dicevo, ci saranno regole da rispettare. La ragione per cui ci siamo decisi a farlo adesso è che in Norvegia il tasso di diffusione del virus è sceso sotto l'1%. Si attesta circa allo 0,7, che significa che una persona infetta potrebbe contagiare meno di una persona. Siamo consapevoli che il virus potrebbe tornare e in questo caso scuole ed asili sarebbero chiusi di nuovo. Diciamo che continuiamo a monitorare con attenzione il tutto e allo stesso tempo cerchiamo di riaprire qualcosa. So we are monitoring this very closely, but we're trying to reopen just a little bit to see if that still holds. Ecco, il vostro vicino, la Svezia, inizialmente ha tenuto tutto aperto. Ha fatto bene? C'è stata una collaborazione tra voi paesi del Nord Europa? I do think that every country, of course, takes a little bit of a different strategy and approach. Penso che ogni paese abbia adottato un approccio e una strategia differenti. Rispetto alla Svezia, noi abbiamo deciso di mettere subito in campo misure precise. Bisogna considerare però anche la questione temporale, nel senso che l'esplosione dell'epidemia è avvenuta in tempi diversi da paese a paese. Credo che non sapremo per molto tempo quale sia stata la giusta strategia. C'è stata una stretta collaborazione tra i paesi del nord. Ogni settimana abbiamo fatto videoconferenze e ci siamo confrontati su misure da adottare e su come ci possiamo aiutare. Tutto a livello molto pratico, per aiutare i cittadini. La cooperazione tra noi è molto forte e anche la Svezia ha iniziato ad adottare misure più stringenti. What we're seeing now is also that Sweden are taking stricter measures now than they did in the beginning. A proposito di solidarietà europea, molto dipende da quello che farà l'Unione Europea in termini di decisioni che verranno assunte per andare incontro a questa che si profila come la più grande crisi economica dal dopoguerra. Well, I think, to be very honest, that I'm not in the right position as a non-EU member to discuss. Onestamente, non penso di essere nella giusta posizione per esprimermi su quale possa essere la giusta strategia, non facendo noi parte dell'Unione Europea. Quello che penso e che lo stesso primo ministro norvegese condivide è che stiamo vivendo una pandemia, un qualcosa che riguarda tutti. Questo significa che dobbiamo risolverlo insieme. Nessun paese può risolvere la situazione da solo ed infatti vediamo come ogni paese si osservi reciprocamente, si cerca di vedere quello che gli altri stanno facendo per combattere questa situazione e va fatto mettendo insieme tutti gli sforzi. Prendiamo per esempio la decisione che abbiamo intrapreso di inviare un team sanitario in Italia. La situazione del vostro paese ci ha toccato profondamente e ci ha impressionato. Ecco perché quando abbiamo avuto l'opportunità di aiutarvi, lo abbiamo fatto. E sappiamo anche che la situazione ad un certo punto potrebbe capovolgersi e saremo noi, magari, ad avere bisogno d'aiuto da altri paesi europei. Ecco perché credo che lavorare insieme sia la cosa più importante da fare per aiutarsi a vicenda ad uscire da questa situazione e fornirci assistenza. Il governo norvegese è composto da molte ministre. È più facile prendere decisioni quando si siede attorno a un tavolo di consiglio di ministri? A sedersi, insomma, sono per lo più donne? Beh, è una domanda a cui è difficile rispondere. Nel nostro governo abbiamo una forte componente femminile e una grande fiducia nei confronti del nostro primo ministro, una donna molto forte e determinata, non solo in questa fase di crisi che stiamo vivendo, lo è sempre, nella quotidianità.

orientate verso le novità del mercato, ma significherà dover riprendersi fasce di attività, attività che devono ricominciare da capo e che hanno bisogno sicuramente delle migliori competenze e delle migliori attività di uomini e donne. Ecco, Scuotto, cerchiamo proprio di far capire in che direzione, se ci state già pensando, no? Sì, noi ci bisognerà stiamo già pensando. Bisognerà come dire, formarsi dopo il coronavirus. Quali lavori saranno più richiesti, quali non saranno richiesti e chi vuole fare formazione che cosa deve seguire, che filone deve seguire? Ci saranno, a mio avviso, ma credo che sia, diciamo, abbastanza netto questo pensiero, dei settori che avranno più lentezza nella ripresa. Penso a quello agroalimentare, quello turistico, quello tessile. E ci sarà un modo nuovo di lavorare. Un collega, un imprenditore del turismo, ieri mi chiedeva: non sarà mai più la stessa cosa portare la colazione ai clienti piuttosto che servire a un tavolo a pranzo, a cena o fare un receptionist. Bisognerà cambiare il modo di farlo, perché questo sarà per sempre, l'attenzione ai contatti sarà per sempre. Ecco, credo che questo sia un esempio tangibile che va moltiplicato per tutte le attività, per tutti i profili professionali che hanno un contatto non solo con il cliente ma anche con il collega di lavoro. Quindi ci sarà da riformare gli atteggiamenti addirittura sul posto di lavoro. E quindi ci sarà da seguire dei corsi di formazione, lei dice, per cambiare mentalità? Ci sarà da seguire dei corsi di formazione, e la domanda era per quelli che riprenderanno il lavoro. Io penso con grande intensità a tutti coloro che invece avranno problemi di cassa integrazione e di ricollocazione, e i fondi interprofessionali possono essere sicuramente un affiancamento importante agli enti di formazione che vogliono interessarsi di queste fasce particolarmente danneggiate, cioè quelli che rimarranno in cassa integrazione o non ritroveranno il proprio posto di lavoro. Io ho l'ultima domanda, non vorrei chiudere con una nota pessimistica, però insomma con una nota realistica sì. In questi ultimi anni l'Italia ha puntato, e giustamente, sulla ristorazione, sulla quantità, no, di turisti che arrivavano nelle nostre città, nei nostri paesi, e andavano sfamati, andavano intrattenuti. Ora che non si potranno fare... come dire, tavoli appiccicati gli uni agli altri, la ristorazione dovrà cambiare, l'accoglienza negli hotel dovrà cambiare. Ecco, come si fa a dire a un ragazzo: segui un percorso sul turismo perché quello sarà sicuramente un lavoro che non verrà mai meno? Certo, io a questo proprio mi riferivo prima, cioè ci saranno nuove attività trainanti nel nostro paese, diverse probabilmente da quelle che lo erano fino a ieri, e ci sarà un nuovo modo di approcciarsi al lavoro. Io credo che l'orientamento, che è un'attività che i fondi interprofessionali hanno finito per fare nel loro percorso, perché sono nati per accompagnare la formazione, ma mettendo in atto tante ore e tante aule nel nostro paese hanno finito per perfezionarla e anche per orientarla. E quindi l'orientamento, secondo me, va completamente cambiato, e questo va fatto ancora prima, perché scendendo nell'età dei nostri giovani, perché possano scegliere i settori che più potranno avere tenuta dopo questa situazione, che, continuo a ripetere, è sicuramente nella sua massima espressione, ma forse la peggiore notizia non è questa, perché poi le cose passano. Il problema è che gli strascichi, quello che porterà ancora nel modo di lavorare, di vivere per tutti quanti nel mondo e non solo nel nostro paese, questo davvero non finirà mai, quindi deve cambiare davvero qualcosa anche nel modo di lavorare. E quindi lei tornerà da noi a Nessuno è Perfetta per parlare tra qualche tempo, avendo un po' le idee ancora più chiare su dove indirizzare la formazione. Nel frattempo io auguro a lei e a tutti coloro che di questo filone si occupano una buona Pasqua, una Pasqua di ripartenza. Grazie a Bruno Squotto, presidente di Fondimpresa. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate, anche grazie alle vostre segnalazioni. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Nessuna è perfetta. Abbiamo parlato di ripartenza, aspetto i vostri messaggi per sapere come pensate di ripartire voi, i vostri messaggi vocali all'828 12 12, ma intanto oggi è Pasqua, di solito si sarebbe andati al ristorante, si sarebbe andati fuori porta e invece questo non succederà. Ma che cosa sta succedendo dall'altra parte, dalla parte dei ristoratori, di quelli che ci ospitavano il giorno di Pasqua nei loro ristoranti? E allora buongiorno Sara Caligiuri, titolare del ristorante Rocco a Roma. Che cosa sta succedendo alla vostra categoria, Sara? Allora Maria, innanzitutto voglio dire che noi abbiamo deciso di chiudere, di fermarci prima che ci venisse chiesto, perché per ciò che ci riguarda noi siamo proprio una piccola realtà di famiglia, siamo un ristorante a gestione familiare senza dipendenti. Quando abbiamo visto la brutta aria, diciamo, che tirava, abbiamo deciso di chiudere e di fermarci per rispetto nostro, ma soprattutto dei clienti, perché siamo abituati a un tipo di lavoro molto molto confidenziale, diciamo, quindi ci siamo fermati e ora appunto stiamo a casa e pensando alla prossima riapertura, a quello che sarà. E il problema è anche, come dire, ripartire con delle misure di sicurezza. Esatto. Voi pensate che sarà possibile distanziare i tavoli, imporre le mascherine, ecco, mangiando è un po' complicato. Come pensate di ripartire? Allora, proprio in questi giorni abbiamo appunto pensato, proprio considerando il tipo di lavoro che facciamo noi, sarà proprio impossibile questo. Ecco, per ciò che ci riguarda non riusciremo sicuramente, noi abbiamo un ristorante che è veramente un buco, e pensare di dover distanziare i tavoli, lavorare con le mascherine, mettere una distanza con i nostri clienti è una cosa che ci sembra veramente impossibile. Quindi il pensiero di per poter ripartire sarà quello di ripensare una cosa nuova. Per esempio abbiamo pensato a una vecchia rostizzeria, come era una volta, alla vecchia schiffetta nella versione romana, nel senso sì, continueremo a cucinare ma non più con i nostri clienti seduti al tavolo, ma appunto verranno e porteranno via. Questa è una quindi idea. Il take away, uno viene, sì, compra e se lo porta, sì, a casa. Esatto, proprio mi piace pensare a una tavola calda più che take away, come era una volta, insomma, no? Durante la pausa uno si andava, si prendeva

resistere in una situazione angosciante da cui non ci si può difendere se non attraverso quelle precauzioni che però non ci esentano dall'ammalarci e dal morire. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un lampo di pensiero a chi questa mattina ci sta seguendo. Grazie professor Galimberti per essere stato con noi a Nessuno è Perfetta. Buona domenica. Grazie anche a lei. Noi torneremo in radio martedì, perché non c'è la trasmissione 24 mattino con Simone Spezia lunedì di Pasquetta. Noi quindi domani non ci sentiremo, ma se vorrete mi ritroverete ogni mattina insieme a Simone Spezia appunto a 24 mattino dalle 8:20, e invece noi ci ritroveremo domenica come sempre a Nessuno è Perfetta. Buona Pasqua amici miei.